55 minuti primi, forse 56, perché sembrerebbe che gli orologi non sono perfettamente sincronizzati, ma di sincronismo, almeno da queste parti, e di questi tempi, diciamo, è difficile parlare, non riusciamo così nemmeno a gestire una semplice venuta in radio di mercoledì notte, quindi conduciamo una vita sincrona rispetto alle fasi del mondo, della storia. Eppure delle storie, vabbè. Comunque, quando possiamo ci siamo, 25 o'clock ai controlli. Sulle frequenze di Radio Onda Rossa nell'etere laziale e romano. Che vedevo di 87, 87 e 9 della modulazione di frequenza. La radio c'è, c'è ancora, c'è sempre. Non vi sbarazzerete di questa voce scomoda. E non vi sbarazzerete di questa voce scomoda essenzialmente perché noi siamo tenaci. In secondo, anzi in primo ordine, perché compagni e compagni e tutte le negoziazioni possibili continuano ad ascoltare Radio Onda Rossa e continuano a sostenerla, peraltro sempre con grande entusiasmo e forse anche maggior entusiasmo di prima. A giudicare dal numero enorme di comunicati, ci ho messo una vita a leggere per dire vabbè che cosa diciamo per la prossima settimana che viene, quando andiamo a pescare, niente diciamo perché sono veramente troppi. Vi rammentiamo quello che già abbiamo mandato, e cioè che il 31 dicembre saremo sotto le Bibbia come ogni anno, con l'antichiata a urlare sotto quelle mura delle carceri che sono un po' l'emblema dell'ingiustizia di questa società, dello squilibrio. E potremmo pure dire della lotta di classe, come si diceva un tempo. Del fatto che si reclude per escludere. E sempre sulla stessa onda che di pensieri, che è uscita Scarcerando 2023, avete sentito lo spot? Avete sentito lo spot pure del 2022. Che sì, rimanda a una Scarcerando vecchia, ma è estremamente esplicativo perché le formule per la pubblicazione e l'acquisto e la diffusione di Scarcerando sono esattamente le stesse ormai da tanti tanti anni. E quindi lo spot dell'anno prima vale lo stesso. Vi dicevamo che voi ci sostenete, vi ricordiamo un modo per sostenere Onda Rossa, che è il numero del conto corrente postale da intestare a Cooperativa Cultura e Laboratorio 2001. Via dei Volsci 560085, Roma, San Lollo. Che poi è oppure il nostro indirizzo, a maggior ragione ora è uscita la scarcerandola, veniteci a trovare, accattatevi una scarceranda e venite anche a sottoscrivere per Onda Rossa. www.ondarossa.info, tutte le informazioni le trovate sul sito, oltre ai podcast eccetera. ondarossa@ondarossa.info per le vostre comunicazioni alla radio, oltre a tutti i social, e 25 o'clock 25 scritto al numero @ondarossa.info per blaterare, insultare, mandare robe al sottoscritto, allo spazio che state ascoltando. 0649175 recapito telefonico della radio. Da sempre non abbiamo mai dimenticato dai quei tempi lontani in cui cominciamo ad aprire i microfoni non su questo mixer ma su un altro. Dicevamo da tanto tempo fa, e tanto tempo fa era che andava questa roba qua. I 1986, Asker Du, da Minneapolis e dintorni. E siccome chi avete trillato sullo spot di Scarcelanda, fra poco lo rimanderemo però da capo. Bob Mould e Grant Hart, Asker Du. Dead Set on Destruction, da capo. e i suoni sono quelli, No, l'avevamo ascoltato il trillo, l'abbiamo sentito. Sospettiamo anche che possa essere il gruppo d'ascolto death metal di Roma Sud che imperversa con lo 0649170, ma non ci mettiamo la mano sul fuoco perché comunque Askardu. Con le loro tribolate esistenze ormai Bob Mould non è più con noi. In quel periodo in cui non si poteva proprio manifestare la propria omosessualità o bisessualità così in maniera tranquilla, non che oggi sia così poi scontato e facile, però senz'altro all'epoca ci trovavamo in una condizione al contorno ben differente dai giorni d'oggi. E qui, siccome poi mese di dicembre ormai ci siamo a pochi secondi praticamente, perché come dice la vecchia filastrocca, che non so se ve la ricordate, quella 20 e 30 giorni a novembre, con aprile, giugno e settembre, 28 ce n'è uno, tutti gli altri ne hanno 31, vuol dire che fra pochi minuti è dicembre, che è il mese appunto, come da spot, che dedichiamo a alla solidarietà e le lotte dal carcere, alla denuncia di quello che succede dietro le sbarre qui da noi, ma un po' in tutto il mondo, ovunque ci sia un'istituzione carceraria. Non potevamo che mandare degli avanzi di galera perché stiamo parlando dei Social Distortion, Nick Ness. Stavolta ce ne andiamo dagli Stati Uniti del centro nord, delle grandi pianure, del grande freddo, degli Askardu, verso invece la California, più calda, e quindi questa volta il da capo lo facciamo noi. Story of My Life, canta Nick Ness. Social Distortion, Onda Rossa, 25 o'clock, old style. changes no one there left to talk to in the pool. All I know as a kid is now a 7-Eleven. Oh. And I went downtown to look for a job. I had no training, no experience to speak of. And I looked at the holes in my jeans and I turned and headed back. Bisogna dire che in questo frangente e con questo disco Social Distortion siamo all'anno 1990, firmarono un contratto con la Epic, cioè con la Sony, per 3 dischi. Un po' già all'epoca si storse un po' il naso perché gli avanzi di galera erano finiti alla major, insomma, però. Poi in realtà il risultato non fu così negativo rispetto a quelli precedenti, anzi continuarono a raccontare le storie dei diseredati, delle periferie, del sick boy. di quella periferia americana abbandonata, che è quella delle campagne, non tanto quella delle metropoli. Della, no, della droga, degli eccessi, della noia e appunto dell'essere perseguitati dagli sceriffi. E continuando in questo, andando a riabilitare un po' di quel mainstream, che poi le generazioni successive appunto considerano mainstream, ma in realtà partirono un po' come tutti in quegli inizi anni 80 degli Stati Uniti, da così, dalle forme di autoproduzione quasi, diciamo, comunque piccolissime etichette più o meno ignorati in realtà dal mercato per tanti anni, perché si preferivano all'epoca altri tipi di suoni più facili, se volete, anche se loro non hanno mai cercato così particolari rudezze o ruvidezze. Però vi presentiamo quello che mandavamo non proprio nel 1982, perché nel 1982 nemmeno la vecchia Next Time ancora era cominciata, che invece parte da 85, diciamo, giù di lì. Però quelli erano gli ascolti che si facevano all'epoca dei Rapid Eye Movement, altresì detti REM, che però ancora non li conosceva nessuno. Questa è la traccia numero 9 dal loro primo lavoro del 1982, che si chiamava Marmor. Traccia numero 9, che si chiamava appunto 99. Di cui parte addirittura Ring of Fire per i Social Distortion, e invece REM 99. Not too far. estive ci avvolgono. Percorre il post-hardcore americano degli anni Ottanta, quello appunto degli Asker Duke, che nel giro di poco tempo passarono dalle ritmiche molto serrate ad ammiccare alle grandi ballate della loro terra. Non poteva mancare questo binario parallelo, però anche abbastanza inconsapevole per quanto sappiamo. E quindi dalle valli fredde americane alle valli fredde delle Alpi e quindi dopo i Kina e i Frontiera, quindi, che ricordano gli Asker Duke appunto, quando cominciano a ammorbidire un poco i toni, i ritmi. E approfittiamo dei Frontiera per mandare il nostro saluto alle due nuove occupazioni, perché l'Etere è stata sgomberata, come sapete. È troppo tardi. Tutte e tutti. Ma delle cenere rinasce, ovvero l'Etere comunque riciccia da qualche parte. E quindi la palestra Iris Versari, che stava all'Etera, ha rioccupato invece la polisportiva Iris Versari, ha rioccupato un posto. E quindi un centro sportivo con campetti, spogliatoi. E poi il circolo occupato, la crepa, è stato appunto occupato ancora dal giro dell'Etera. E quindi sarà questo nuovo circolo La Crepa, sarà uno spazio dove incontrarsi, portare avanti le lotte in quartiere e città. Ed era, pertanto per dirla, una ex filiale dell'Intesa San Paolo, quindi ancora. Quegli spazi di cui il capitalismo, che si fa sempre più virtuale, abbandona. dovrebbero diventare di nuovo luoghi di socialità, di incontro, di lotta politica, di aggregazione. Quindi un saluto a questi compagni e compagne di Torino. E noi andiamo avanti, andiamo in quella Seattle che fece partire alla fine degli anni Ottanta quel fenomeno che si chiamava grunge, che un po' riassumeva appunto l'hardcore di inizio anni Ottanta, che si era sviluppato per lo più in California, ma appunto anche a Minneapolis e in tanti altri luoghi, a Washington DC. Invece stavolta non nel Distretto Federale, ma nello stato di Washington, a Seattle, altro luogo di altra metropoli di grande abbandono del proletariato, delle classi meno abbienti, di spazi chiusi, di povertà, di immigrazione, di droga diffusa tranquillamente, apertamente sul territorio, tanto e non tanto per scopi ludici o ricreativi, ma semplicemente per abbattere, per annientare le generazioni dell'epoca. Fra le tante band ne andiamo a scegliere una che forse era quella proprio che più di tutte andava a mischiare un po' le carte, così importanti, buttandoci dentro addirittura delle influenze jazz, comunque tante ballate, tanta rabbia. La voce era quella di Bob Mood, loro si chiamavano gli Afghan Twigs. Ascoltare il suono. E quindi da questi ali, da questi aquiloni afghani. Con destino. La seconda traccia dal lavoro che si chiamava Up in It, seconda traccia che è White Trash Party, Onda Rossa, 25 o'clock, Afghan Wigs. Noi siamo già morti. Noi siamo già morti. il 1 dicembre si svolgerà l'udienza del riesame sul provvedimento di applicazione del regime di 41 bis per i prossimi 4 anni all'anarchico Alfredo Cospito. Alfredo, trasferito al circuito di alta sicurezza 2, è stato rinchiuso nel carcere di Bancali a Sassari in regime di 41 bis dal 5 maggio. Contro questo provvedimento ha intrapreso uno sciopero della fame ad oltranza dal 20 ottobre. Nel frattempo Juan Sorroque e Ivan Allocco e Anna Beniamino si sono unite allo sciopero della fame da altre carceri e il sostegno alla lotta è arrivato da numerosi prigionieri rivoluzionari. È passato ormai molto più di un mese ed è sempre più urgente riprendere con la solidarietà. L'udienza nei confronti di Alfredo si svolgerà presso il Tribunale di Sorveglianza di Roma, che ha competenza esclusiva per le decisioni sui reclami avverso i provvedimenti applicativi del regime 41 bis per qualsiasi persona detenuta. Negli anni le procure sono passate da varie inchieste antiterrorismo, con tutto il seguito di mediaticità e propaganda degli organi di stampa e di Stato, al facile inserimento di reati associativi, per poi arrivare all'oscura ombra del 41 bis. Un regime di tortura che rappresenta una minaccia e un pericolo per riguarda tutti e tutte. Sappiamo infatti che la repressione si muove su più livelli, non solo quello punitivo della pena inflitta per il reato contestato, ma anche quello preventivo di monito per chiunque pensi possibile ribellarsi, e quello vendicativo volto a debellare l'idea rivoluzionaria e di lotta in generale. Alfredo ha sempre contribuito al dibattito con scritti pubblici e ha continuato l'attività di editoria anarchica anche dal carcere. Proprio questa è stata ritenuta dagli inquirenti istigatoria del movimento anarchico, descritto come un'organizzazione formale con ruoli e gerarchie. Quindi la logica del 41 bis di recidere i contatti con la presunta associazione di appartenenza esterna viene messa in pratica, vietando nell'isolamento totale rapporti epistolari con chiunque, la socialità e perfino letture di quotidiani, libri e riviste anche di movimento. L'obiettivo è l'annientamento di un prigioniero rivoluzionario, al punto che al giorno d'oggi non è possibile conoscere la dichiarazione con cui Alfredo spiegava le ragioni dello sciopero della fame, perché durante il processo in videoconferenza il giudice gli ha tolto l'audio e il microfono. Vogliamo fermare questa spirale repressiva e la lotta ad Alfredo e sciopero della fame che sta rischiando la sua vita, a quella di Juan, di Ivan e Anna, e alla nostra lotta. Per chi ha a cuore la vita di Alfredo, Juan, Ivan e Anna, giovedì 1 dicembre, cioè fra poco, alle 9.30, presidio al Tribunale di Sorveglianza in via Triboniano 5, nei pressi di Piazza Cavour, fuori Alfredo dal 41 bis, contro il carcere e la società che ne ha bisogno. Firmata da Anarchici Anarchici, e anche da queste parti ci teniamo così a rilanciare questo appello. E passiamo quindi dagli Afghan Whigs degli anni 90 invece al 2016-17 o giù di lì. Bob Mood. Questa voce roca e diabolica. Riciccia fuori qualche anno fa, appunto, con questo singolo. Questo disco in solista, era questo il termine. E dato che è una trasmissione di notte e che c'ha a che fare col con la luna. Non potevamo che ascoltare la nona traccia tratta da questo eloquente Random Desire, che si chiama Black Moon. Radio Onda Rossa 25 o'clock. Mirrors mine at night. sister. Sister of mine, set the sky on fire. The savage kingdom is blind. Sister, sister of mine, set the sky on fire. The savage kingdom is blind. The spirits in the wood, I can't name them all. Place me in a hood, walk me to the wall. All these lonely things I've held so near, you gleam just the same. Yet they're never here. Sister, sister of mine, set the sky on fire. The savage kingdom is blind. Sister, oh, sister of mine, set the sky on fire. Questa voce che assomiglia molto al crepitare di un fuogo, e anche questa è una voce che ci ha lasciato qualche mese fa, è la voce di Mark Lanegan. Che lo ricorderete quindi come leader fondatore, componente degli Screaming Trees, altra band di quelle del grunge di Seattle o giù di lì. C'è da fare una errata corrige, perché Greg Dooley, il lavoro di Greg Dooley è del 2020, e a differenza avevamo invertito, confuso le date delle due programmazioni qui in playlist a 25 o'clock. Questa è del 2017 invece, Mark Lanegan Band. nella fattispecie questa sister di Johnson Lanegan, cioè appunto Alan Johnson, Frovet 5, B3, Tremolo Guitar, al Mellotron, Shaman Drums, Duke Gerwood alla chitarra e ai corni, e Frederick Slin Jacque al basso, Jean-Philippe de Gest alle batterie e Shelley Bryan ai controcori. Quindi salutiamo la Mark Lanegan Band. E ci spostiamo a 12 anni addietro. Quando uscì questo Grinderman 2, ancora un progetto. Altri di quei personaggi degli anni 80-90 che diedero grande lustro ai suoni più alternativi, più nascosti, più profondi anche, più sotterranei di quell'epoca, cioè Nick Cave. E nella fattispecie Nick Cave si accompagna con Martin Casey, Juan Ellis e Jim Sclavuns, o così si dovrebbe pronunciare. Ovviamente ascoltiamo Evil Grinderman. listen to me now, now, now, now. Listen, listen, listen, listen. Little girl, you better sit down. You better take a look around and get a hold of yourself, woman. And embrace what you've become, 'cause you're too much for them. La mezzanotte, questi sono i suoni notturni di Radio Onda Rossa di 25 O'Clock. E se mai dovesse esistere una competizione fra generi, quelli proprio maschile e femminile, intendo. Dicevo, se mai dovesse esistere una competizione, con queste due robe qui che abbiamo mandato di seguito dopo Grinderman. 2-0 netto per quanto riguarda le femmine, perché abbiamo prima ascoltato dei Savages. Savages, che sono Asie Hassan al basso, Faye Milton alle batterie, Gemma Thompson alla chitarra e Jenny Bett dalla Francia alla voce. Da cui abbiamo ascoltato dal primo lavoro delle Savages, Silence Yourself, abbiamo ascoltato la terza traccia che si chiama Cities Full. E poi questo blusaccio. Dannato. Hard Loving No Woman. Per quanto riguarda Juliette Lewis, stavolta si fa accompagnare dalla produzione dei suoni da Omar Rodriguez Lopez, dei Atle Dravin, Mars Volta e chi più ne ha ne metta. Lavoro questo del 2009, quindi anche qui abbiamo più di 10 anni di passaggi da queste parti. A 25 o'clock a Radio Onda Rossa, 87.9 della modulazione di frequenza 0649175050, uscita la Scarceranda, nuova. Quaderno 17. Scarceranda 2023. Lo trovate in radio, sui banchetti della radio, in giro per la città, l'iniziativa, le presentazioni di Scarceranda e nei migliori info shop di movimento. €12 per la Scarceranda nuova del 2023. Ogni Scarceranda acquistata permette a un'altra Scarceranda di entrare in carcere a una detenuta o a un detenuto. Quindi calcando sempre vecchi temi, vecchi suoni di quelli che passano qua il mercoledì notte da tanti anni. Non poteva mancare costui. E poi la scaletta la mandiamo al Conte, perché penso che... Sì, sì. Ne rimarrà contento. E quindi Julian Cope dall'altra parte dell'Oceano Atlantico, dalla terra dei Celti. To turn back now. Julian Cope da Black Sheep. Il paganesimo che si fa ballads. E siccome noi niente, no, vabbè, ci viene il brivido quando ascoltiamo Julian Cope. Tale man, tell me the tale of your life, for I'm sure it is a good. E come fa alle 12 minuti dopo la mezzanotte anche a voi a non scorrere un brivido sulla schiena quando passa? Tale man, tell me the tale of your life, for I'm sure it is a good one. The things I know. A father only love. E perciò trillo o non trillo, tanto qua la luce si è fulminata, noi ci abbiamo la cuffia, altri non lo sentiamo, però insomma lo merita assolutamente. These things I know, a grandmother shows a Radio Onda Rossa, Julian Cope da capo, deve essere così e basta. But a God. In piedi, eh. Tale man, tell me the tale of your life, for I'm sure it is a good one. Tale man, tell me the. In piedi e si canta in coro. Tale man, tell me the tale of your life, for I'm sure it is a good one. Tale man, tell me the tale of your life, for I'm sure it is a good one. Tale man, tell me the tale of your life, for I'm sure it is a good one. Tale man, tell me the tale of your life, for I'm sure it is a good one. These things I know. A father only loves his own. These things I know. But a mother is a sweet thing. These things I know. A grandmother shows accommodation. These things I know. But a God can only speak to his own. Tale man, tell me the tale of your life, for I'm sure it is a good one. Tale man, tell me the tale of your life, for I'm sure it is a good one. Tale man, tell me the tale of your life, for I'm sure it is a good one. Tale man, tell me the tale of your life, for I'm sure it is a good one. These things I know. Sometimes we must leave the city. These things I know. Your verse may lie if your chorus is pretty. These things I know. Everyone believes the wiki. These things I know. The city smells, but so does the countryside. Some say peace, but they mean submission. Truth can be sticky. It's your truth, you're stuck with it. Wrongs cannot be righted without changing another's traditions. They'll change their ways, but only if you resist their insistence. Tale man, tell me the tale of your life, for I'm sure it is a good one. Tale man, tell me the tale of your life, for I'm sure it is a good one. Tale man, tell me a tale of your life, for I'm sure it is a good one. Tale man, tell me the tale of your life, for I'm sure it is a good one. These things I know. A jealous God means a jealous priesthood. These things I know. When the visionary's lie asserts itself. These things I know. A jealous priest is a deadly enemy. And these things I know. A deadly enemy serves you better dead. Tell me what's wrong with my life. Am I only here to question? No, sir, you are undoubtedly here to cajole and make suggestion. With the weird light shining in your eyes, even hell would never see. The sun is up another day.

27 minuti dopo la mezzanotte abbiamo un po' inaugurato, ma un po' per tutta la sera, questi suoni, queste tonalità piene di eco, di caverne. Degne del miglior garage, quello più... più occulto, più nascosto, più underground, come si dovrebbe dire, nel senso più genuino del termine, cioè di coloro che ci tengono a rimanere underground, anche se poi insomma si finisce per diventare delle celebrità nonostante tutto. È il caso di Jesus & Mary Chain. Never Understand, mai sottomessi, giusto. La California, il quartetto La Luz, qui abbiamo ascoltato California Finale, e ovviamente Velester che ci ha fatto omaggio del jingle di 25 o'clock, 29 minuti dopo la mezzanotte. Place to Beauty Strangers. Lavoro si chiamava Transfixation, difficilissimo da pronunciare, del 2015. Da cui andiamo a trarre la disturbata Straight. Onda Rossa 87 e 9. A place to be strangers. Got you. I would cause her way too much pain. She would have to turn back the way. at the glass, cyclopropion, stare up at the Pepsi sign. I'm overextended, I'm over it all, I'm over the Rhine, the millionth time. I'm overextended, I'm over it all, I'm over the Rhine, for the millionth time. For the millionth time. E c'è un detto che risuona così dalle nostre parti. Quando si commentano così quelle grandi dispute, un po' come succede nel nostro paese con l'alternanza politica tra sinistra e destra, no? In cui si fa un grande spolvero di competizione elettorale, di affronto di idee. E poi, come si dice, si finisce tutti a tarallucci al vino sotto il grande accogliente ombrello della NATO, della Unione Europea, dei grandi consessi della Banca Mondiale, del Fondo Monetario Internazionale, insomma dei grandi consessi neoliberisti e guerra fondai. Così, dalle nostre parti, invece di dire si finisce sempre a tarallucci e vino, si finisce sempre a ballads. E quindi Giant Sands. Anzi, io ci metto sempre la S alla fine, sand. Sabbia gigante. Valley of Rain. E qui invece The Big Red Machine. Che devo dire di questo disco che tra l'altro accoglie importanti ospiti, in realtà questa The Ghost of Cincinnati è senz'altro la parte più saliente e importante. For the millionth time, for the millionth time, I'm overspent, overworked, overlooked, I'm over the ride. E noi insomma, siccome ce ne stiamo andando, non lo facciamo però prima di due robe. Uno, ve l'avevo promesso, insomma, rimandiamo lo spot che ci ha donato la morte. Per scherzando, 2023 la morte è l'apostrofa morte. E poi ancora la morte con Supernova 2.0. Now I'm in the big time. Not a suicide. Stalk the streets and haunt you from the north side. I face the hedgerow, dodge the low blows, play the fountain square and wonder where my cousins go. Haunt the north side, stop the traffic lights, cyclopropion, and stare up at the Pepsi sign. I'm overextended, I'm over it all. Sorride stanca, la porta glaciale incanta, scarceranda carovana migra. l'orizzonte, il suono del vento curva e fermo su uno spazio-tempo. Uscita Scarceranda 2023, la trovi in radio, nei banchetti di Onda Rossa in giro per la città e nei migliori infoshop di movimento. Sfinge, tempesta, senza respiro nel camici dei cardi, scendendo senza guardare. 54 minuti dopo la mezzanotte, quindi utilizziamo DJ Shadow per la nostra discesa finale. Sling Blade abbiamo ascoltato come ultima traccia di questa edizione di 25 O'Clock in questo ormai primo di dicembre, in cui peraltro possiamo dire, affermare con certezza, che siamo stati i primi in diretta mondiale ad aver mandato Supernova nella versione definitiva, la 2.0, l'abbiamo così ribattezzata. Per quanto riguarda il progetto La Morte, bella Ciccio, bella Alessandro, infatti è previsto l'uscita del video per quanto riguarda Supernova sulle piattaforme proprio per il primo dicembre. Non so se già andando sul tubo riuscite a trovare, andate magari a digitare a vedere che se c'è. Noi non l'abbiamo fatto perché avevamo ovviamente i soliti raccomandati, l'anteprima della traccia audio. Comunque adesso c'è il video, di cui abbiamo visto solamente un piccolo estratto che ne preannunciava l'uscita, di 50 secondi. Con questo appunto non possiamo che terminare qua e salutare a tutte e tutti. Ricordare che nessuna resta solo sola. Martedì 29 è già passato, giovedì 1 dicembre ore 9.30 via Triboniano 5 nei dintorni di Piazza Corre, presidio al Tribunale di Sorveglianza. Giovedì 1 alle ore 20 dell'Hollis Underground, proiezioni di Hunger, Steve McQueen sullo sciopero della fame di Bobby Sands. Sabato 3 alle ore 11, 87 e 9 di Radio Onda Rossa, Voci contro il 41 bis. Sabato 3 ancora, ore 14, Piazza Repubblica, spezzone contro la repressione nella manifestazione nazionale del sindacalismo di base. E ancora sabato 3 alle ore 18.30 al centro sociale occupato e gestito ex SNIA. Associazione a resistere, questo è un po' il programma quindi di questi primi giorni di dicembre. Noi con questo vi lasciamo alla compagnia automatica Zara, che vi terrà Zara, dai, questa è roba vecchia, La compagna automatica è sempre lei, ma da tempo non c'è più Zara. La compagna automatica si chiama Sonata, e lo è di nome e di fatto, che vi terrà compagnia per tutta la notte con le sue repliche delle trasmissioni che vanno in onda durante il normale panzesto di Onda Rossa, e trasmissioni e corrispondenze e redazionali che vanno in onda durante il normale palinsesto, e si riprende alle 8 di stamattina ormai con la lettura delle prime pagine dei giornali, la rassegna stampa cittadina, dalle 10 alle 12 redazionali di Onda Rossa. Una piccola pausa per rifocillarci e poi si riprende alle 14.15 con tutta scena cinema. Alle 16 Attica Blues oltre al Black Music, alle 17 La Schiena del Soul Martis, e bella Mariano e bella tutti quanti e tutte quante fate parte della redazione allargata di La Schiena del Sol. Alle 20:15 la trasmissione su Ibridia di Onda Rossa, Tabula Rasa, e alle 22 Cuginetti d'Apostasia. Alle 22 si fa per dire, inizia un po' sempre quando gli pare. Il nostro saluto più importante va ovviamente a tutte e tutti coloro che sono costretti a condizioni di libertà, da libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, arresti domiciliari, centri di detenzione per migranti e tutti gli altri dispositivi repressivi amministrativi che ci costringono comunque a non spostarsi dalle nostre residenze, dai nostri luoghi di lavoro, e alle volte anche in conflitto con le nostre residenze, i nostri luoghi di lavoro. Bella a tutti e a tutte, non ci risentiamo, crediamo, al 99,9% per mercoledì prossimo. Ci sentiamo a dicembre inoltrato, purtroppo si va avanti un po' così a luce intermittente. Noi ce ne andiamo sotto la luna comunista, bella a tutti e a tutte. Ci risentiamo su queste frequenze, dai. My name is... our dreams, I'll share our dreams under a communist moon.